una delle più violente dell'epoca, e ha contrapposto due fra i principali produttori mondiali di petrolio. La produzione iraniana ne ha sofferto, come quella irachena, perché il conflitto si è svolto sostanzialmente nella regione dei giacimenti a nord del Golfo Persico. La guerra fra Iran e Iraq, la guerra di Saddam Hussein contro l'Iran, non è stata altro che una congiura dell'Occidente contro la Repubblica Islamica, e questo è successo senza alcun dubbio. Le tre grandi forze presenti nella regione si nascondevano dietro Saddam nella guerra contro l'Iran. Ciascuna aveva le sue ragioni per collaborare con l'Iraq, anche perché gli occidentali dovevano rinunciare a tutti gli interessi che avevano in Iran. Gli Stati Uniti non volevano un Iran vittorioso, in grado di dominare la regione. Quanto ai paesi più reazionari del Medio Oriente, avevano paura che la rivoluzione si propagasse fino a coinvolgerli direttamente. L'Iran e l'Iraq sprofondano in una guerra che durerà 8 anni e lascerà sul terreno circa 1 milione di morti. Come la Prima Guerra Mondiale, anche questo è un conflitto contraddistinto da trincee, gas e massacri. Ma si assiste anche a una grande mobilitazione popolare. Milioni di volontari si arruolano nell'esercito rivoluzionario. È il collante che unisce la nazione. La religione dell'Iran è l'Iran stesso. Aveva solo 17 anni. Era elettrizzato dall'idea della guerra, delle battaglie. Gli hanno chiesto di aspettare, di essere maggiorenne prima di entrare nell'esercito. Ha risposto: no, io voglio andare al fronte. Un altro aspetto essenziale della guerra è stato quello dell'identità nazionale. Da molto tempo gli iraniani avevano perso il senso di identità. Avevano dimenticato il prestigio del loro grande passato. Cercavano un'occasione per ritrovarsi, e la guerra con l'Iraq ha dato loro questa possibilità. È la prima guerra che hanno vinto in 2 secoli. Fra quanti sono presenti in questo giorno del ricordo al cimitero dei martiri, moltissimi hanno perso un fratello, un padre, un figlio, un amico. Alberto Negri, ma l'accordo sul nucleare, appunto, che dovrebbe chiudersi probabilmente entro oggi, che futuro può avere sul piano dei rapporti internazionali? Beh, avrà dei grandi riflessi, poi li misureremo nel corso del tempo, ma l'Iran, ricordiamoci appunto, come dicevamo prima, era un alleato degli Stati Uniti ai tempi dello Shah, era un paese, forse il paese più importante della regione per l'America e per l'Occidente. Ecco, un suo rientro nella comunità internazionale, senza le sanzioni, senza l'embargo petrolifero, chiaramente cambierebbe i dati strategici della regione. E quale potrebbe essere un punto d'accordo? Ma il punto d'accordo è proprio quello alla fine sulle sanzioni. Questo accordo si basa su una formula semplice ma non banale, cioè uno scambio tra nucleare e sanzioni. Se l'Iran rinuncia al nucleare militare, in qualche modo dà delle garanzie a questa rinuncia, ecco che otterrà anche la cancellazione delle sanzioni. E questo cosa significa? Volendo ritornare agli equilibri del Medio Oriente. Beh, innanzitutto significa dal punto di vista economico che l'Iran può ricominciare a fare transazioni internazionali, a commerciare in tutto il mondo. Ricordiamoci che l'Iran è stato un paese con cui tutta l'Europa e anche l'Italia aveva notevoli scambi commerciali anche in passato, ma soprattutto significa in qualche modo il riconoscimento dell'Iran come una delle potenze regionali principali del Medio Oriente. Israele dice che se si apre sul nucleare civile, in questo modo sarà impossibile prima o dopo impedire l'uso militare dell'atomo. È vero? In parte è vero e in parte no. In parte è vero perché chiaramente la tecnologia nucleare è, come si suol dire, dual use, cioè può essere usata sia a scopi civili che a scopi militari. Non è vero perché se l'accordo verrà firmato e verrà rispettato, l'Iran verrà sottoposto a controlli talmente, come dire, puntuali da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che sarebbe difficile per l'Iran arrivare a una bomba atomica. Già peraltro questi controlli sono in atto da tempo. Per quanto riguarda noi europei, cosa dobbiamo sperare? Noi dobbiamo sperare in un accordo, perché l'Iran comunque, se vogliamo, è di fatto in campo un nostro alleato nella guerra al califfato. Sono i curdi, gli sciiti e le milizie dei Pasdaran in Iraq che stanno combattendo contro il califfato. E comunque, siccome gli sciiti rappresentano sia pure una minoranza del mondo musulmano, sono una minoranza importante che in qualche modo può controbilanciare le spinte al radicalismo che sono venute in questi anni dai sunniti. Il mondo musulmano è evidentemente percorso in tutta la sua globalità da spinte radicali. Quello che si deve cercare di controbilanciare le spinte in modo da poterle contenere. Grazie Alberto Negri.